Bella. Siamo Andrea ed Ettore dal Forte Prenestino, salve a tutti. Questa è una trasmissione dedicata a Tony Allen, grande batterista nigeriano scomparso alla fine di aprile di quest'anno. Eh sì, per la precisione se n'è andato e ci ha lasciato il 30 aprile. Va chiarito, non di Covid-19, ma di un aneurisma, se non sì, sbaglio. Un aneurisma dell'aorta. Alla fresca età di 79 anni, e che però gli consentiva comunque di produrre, suonare, registrare dischi veramente notevoli, come quello che stiamo ascoltando, che è The Source, diciamo a livello di album ufficiale il suo penultimo, un album uscito per la Blue Note francese nel 2017. Nello stesso anno, qualche tempo prima, era uscito un album tributo a Art Blakey, figura di batterista jazz che lui molto ammirava, sempre per la Blue Note, e chiaramente questo omaggio era, diciamo, pedissequo, quattro brani famosi standard proprio del batterista americano. Mi sembra che la prima traccia fosse proprio Morning. Sì, era Morning. E disco molto bello, però chiaramente molto legato allo stile ma jazz. Qui, come sentite, c'è quello, c'è l'afrobeat, c'è anche comunque un'area di novità. Poi parleremo dopo delle collaborazioni che Tony Allen ha avuto con vari musicisti, e in cui diciamo che trascende un po' il genere afrobeat, lo stile propriamente detto, e si contamina anche addirittura con l'elettronica. We'll be right back. E quindi Push and Pull da The Source, il penultimo album di Tony Allen, questa trasmissione dedicata a questa figura fondamentale della musica tutta, è praticamente l'inventore dell'Afrobeat. Lui stesso se lo rivendicava dicendo: non è Fela Kuti che ha inventato l'Afrobeat, ma io, perché giustamente dice: io ho inventato lo schema ritmico dell'Afrobeat, la contaminazione che c'è fra l'highlife e il funky di James Brown è praticamente riducibile, riconducibile alla scrittura ritmica e in particolar modo percussiva. L'abbiamo sentito anche in questo disco, che era del 2017, un disco inciso per Blue Note francese, da The Source il titolo dell'album e Push and Pull il titolo del disco. L'ultima uscita di Tony Allen è invece questo Rejoice, altro bellissimo album a mio avviso, in cui c'è questa fondamentale, importante e pesante presenza del trombettista sudafricano Yuma Sekela, che purtroppo anche lui scomparso nel 2018. Sono registrazioni che sono state poi riprodotte, rimasterizzate, remixate con la presenza di altri musicisti abbastanza importanti e di tendenza della scena più attuale. Li dico, sono Tom Herbert degli Acoustic Ladyland, nonché degli The Invisible, Joe Harmon Jones degli Ezra Collective, e Mutale Chashi dei Kokoroko e Steve Williamson. In questo disco, che è del 2020, appunto, abbiamo questo incontro, non è il primo incontro, è un incontro di diciamo di incisione, di produzione di un album, ma in realtà Tony Allen e Masekela già si conoscevano, e il tramite della loro conoscenza e della loro amicizia fu proprio Fela Kuti nei primi anni 60. Ricordiamo a tale proposito una nota di colore: Fela Kuti, quando andò a studiare a Londra, perché aveva la possibilità, ricordiamo che Fela Kuti proveniva da una famiglia alto borghese che lo mandò a studiare a Londra, e il primo strumento con cui ebbe l'approccio di studio chiaramente fallimentare fu proprio la tromba, che lui non suonò più perché non era, lui stesso diceva che non era in grado di suonare. Quindi per fortuna da una parte, perché ha fatto tutto il resto, è quello che ci piace a noi. Allora, da questo ultimo disco di Tony Allen, che è Rejoice, ascoltiamo il brano Slow Bones. We'll be right back. Soletto l'assolone riverberato di Hume Sekera mixato con l'incipit di questa The Night Watcher, una collaborazione uscita per la Decca nel 2018. In realtà si tratta di un CDR promo prodotto insieme a Jeff Mills. Tomorrow Comes the Harvest è il titolo e questa è l'edit di The Night Watcher. Questo per soffermarci giusto qualche secondo sulle collaborazioni che Tony Allen, questa personalità musicale ampiamente eclettica, ha avuto nel corso dei decenni con vari artisti, diciamo solo qualche nome, tra cui per esempio Ernest Ranglin, Jimmy Tenor, Jeff Mills appunto che stiamo ascoltando, Grace Jones, il già succitato Hume Sekela, King Sonny Ade, Ray Lema e anche Manu Dibango. una delle collaborazioni più note, uno dei supergruppi che è stato più ascoltato in questi ultimi anni è sicuramente The Good, The Bad and The Queen. Era una formazione che vedeva questo quartetto abbastanza importantuccio: Tony Allen innanzitutto, Damon Albarn dei Blur, e Simon Tong e alla fine Paul Simon, addirittura il bassista dei Clash. Da una collaborazione invece, una diciamo ospitata, che Tony Allen concede nel suo disco Film of Life, un disco del 2014 uscito per la Armonia Mundi addirittura, e in cui ospita ai vocals appunto il suscitato Damon Albarn, e il brano che andiamo ad ascoltare da questo brano è Go Back. When you can see the stained reflections of city lights, but you're far away at sea of all the satellites, and the runaway, what am I gonna do with you if you go? The harbor master tries to switch off the lights, switch off the lights, and the waiting rooms are empty of everyone. Does anyone? What am I gonna do with you if you go back? Does anyone? E voi state ancora ascoltando Phase Zero dal Forte Prenestino con Ettore Andrea ai microfoni, e questo era sempre Tony Allen. E il prossimo brano che vi facciamo ascoltare è invece un brano che risale al 1968 ed è un brano di sempre Fela Kuti con i suoi Cola Lobitos, nei quali suona anche Tony Allen, appunto la batteria. E, la storia di questo gruppo è particolare, nel senso che Fela studiava a Londra, appunto, come diceva prima Ettore, al Trinity College, e decide di formare un gruppo, appunto i Cola Lo Beatles, e nel 63 però ritorna in Nigeria e, diciamo, crea una formazione locale dei Cola Lo Beatles, nei quali appunto per la prima volta esordisce Tony Allen. E questo pezzo è del 1968 e viene dal disco Fela Ransom Kuti and his Cola Lo Beatles, l'etichetta è Parlophone e il pezzo si chiama Ololufe. Ginger agrees with everything I say. Right on. Here goes now. Ancora all'ascolto di Phase Zero. Questa volta ancora con Fela Kuti dopo Ololufe o Ololufe Mi, che è il titolo che poi viene dato nelle versioni successive del brano che abbiamo ascoltato precedentemente. Andrea e Ettore ai controlli. Invece abbiamo un lungo brano sul quale ci permettiamo di parlare. Io devo fare le mie scuse innanzitutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori perché sono molto arrugginito dal punto di vista radiofonico. Stavo ricordando qui con il mio compagno che sono 20 anni almeno che non mi capita di fare radio, lui invece è molto più recente. No, sei più bravo te. No, tu sei fresco. Allora, questo disco è live ed è, l'abbiamo scelto perché è singolare, qua c'è un incontro abbastanza importante. È un live del 1900. Sì, 1971. 1971, ok. Ed è Fela Branson Kuti and the Africa 70. Con ospite Zenzero Panettiere, Ginger Baker. Ginger Baker, che in italiano è Zenzero Panettiere, il grandissimo batterista, chiaramente lo ricorderete come batterista dei Cream, anche lui purtroppo scomparso un anno prima nel 2019, il quale Ginger Baker produsse e interpretò un documentario secondo me assurdo quanto meraviglioso sul suo viaggio verso Lagos. Se reperite questo film in rete o qualsiasi altra parte, guardatelo perché è veramente uno spettacolo. In quel periodo andava molto in Inghilterra il recupero della tradizione musicale africana. Adesso, senza stare a parlare degli esuli sudafricani, questo meriterebbe una puntata a parte, che forse faremo, chissà. Chissà, sì. e c'era questa fascinazione del rock inglese proprio, oltre che dei jazzisti, anche dei rockettari inglesi, verso la musica di Fela Kuti. Questo perché già la voglia di contaminazione con la musica africana era doppiamente soddisfatta dal fatto che quella di Fela Kuti era già di per sé contaminata come musica, appunto, con il soul, il rhythm and blues e funky. Eh sì, e poi l'avevano sentita a Londra, tra l'altro, infatti. Quindi tutto ritorna a questo grande cerchio che si chiude, e in questo cerchio viene, tenta di inserirsi, questo lo ricordavamo l'altra volta, mi sa che c'è pure nel documentario Music is the Weapon, Paul McCartney va a Lagos a vedere Fela Kuti che suona, e viene bistrattato da Fela Kuti, proprio trattato a male parole, viene quasi cacciato fuori. Fela Kuti gli urla: tu rubi la nostra musica. Chissà perché invece Ginger Baker, Zenzero Panettiere, gli stava simpatico, e con lui collabora e incide varie cose, per cui questo live in cui vediamo, sentiamo nel video, vediamo anche se esiste da qualche parte, io non l'ho mai visto di questo concerto specifico, un doppio drumming, quello di Tony Allen e quello di Ginger Baker. Quindi questi due cadaveri suonanti ci li godiamo in questo disco di Fela Kuti di Africa 70, e poi dopo riascoltiamo di nuovo Tony Allen e ritorniamo alla sua discografia solista con qualcosa da dire. Siamo quasi in fine, altri due brani e ci saluteremo. E comunque ancora Egg Be Me o Carry Me I Want To Die, questo titolo è, come si legge nelle note di copertina, un'esortazione all'approfondire il percorso che l'anima fa attraverso la danza, cioè dal semplice muoversi all'arrivare addirittura a uno stato di ipnosi, di trance. Buon ascolto e buona danza. Not the only one. Wow. Maybe it's the music, maybe it's the rhythm. You know what it is. Here goes one more time. He don't know Lord, don't you put a head out. He don't know Lord, don't you baby out. He don't know Lord, don't you put a head out. Oh, sing it one more time, all of us, for this time with the whole band. It's a beautiful thing. Let's go, everybody, now. Let's go. Come on. Now, 1, 2, 3, 4. Non saprei come insegnare a suonare sequenze ritmiche come quelle che suono io. L'unica cosa che posso dire è che se vuoi suonare come me, non devi guardare la batteria, devi guardare dentro la tua testa. Questo è ciò che direi. I tamburi sono lì, la bacchetta è qui nella tua mano, ma tu stai trasferendo sulla batteria quello che senti lassù nella tua testa. Se vuoi suonare come suono io, devi sviluppare questo tipo di abilità. quello che avete ascoltato prima erano le parole di Tony Allen sul suo modo di intendere il drumming, il modo di suonare la batteria. Quello che invece state ascoltando in questo momento è Afro Disco Beat, che è un pezzo sempre di Tony Allen, dall'album Progress del 1977. La particolarità di questo disco è che è uno degli album prodotti da Fela Kuti, che diciamo si fece da parte, suonò nel disco anche di Tony Allen e permise a Tony Allen di registrare con gli Africa 70, con tutta la sua band. Questo a dimostrazione della stima che poneva nei suoi confronti, stima dimostrata anche dal fatto che in tutti i dischi di Fela Kuti il primo credito come musicista è riservato a lui, a Tony Allen. Allora, trasmissione Scrocchiarella, Radio Forte. E qua è tutto un po' scrocchiarello, diamo subito la colpa un po' al clima, questo clima iniquo, umido, questa cappa. Però a parte questo, c'è da dire che è la prima volta che noi approcciamo questa strumentazione, questa attrezzatura, quindi diciamo che siamo un po' impediti. Speriamo di essercela cavicchiata, insomma, abbastanza decentemente. Face Zero, questo nome è fase zero, ma si può leggere anche faccia zero, scegliete un po' voi. Allora, Fela Kuti nello specifico, anzi Tony Allen, con la produzione e la partecipazione di Fela Kuti, Afrodisco Beat da Progress. Questa è l'ultima traccia che abbiamo ascoltato della vecchia discografia, quella degli anni 70, e chiudiamo questa retrospettiva chiaramente povera, nel senso che non è che si può dire tutto su questa, ci vorrebbero almeno 3 ore per dare un quadro esauriente di questo personaggio fondamentale per la musica nera. Quello che abbiamo avuto a disposizione noi è un tempo in cui abbiamo cercato di concentrare un po' dei picchi e anche delle chicche, scusate il gioco di speriamo che vi sia piaciuto, speriamo questo, e speriamo che si senta decentemente. L'ultimo brano con cui io ed Andrea. E Andrea chiudiamo questa selezione dedicata a Tony Allen è un brano che risale, insomma, più recente, da un disco che io adoro e che uso spesso anche nei miei DJ set, che è Secret Agent, un disco del 2009 uscito per la World Circuit. Sì, World Circuit. Sì. E il brano che ascoltiamo è proprio l'ultima traccia, che diciamo ha un sound molto gioioso, molto ballabile, danzabile e cantabile, ma in realtà il titolo è un po' tradotto in inglese, vuol dire Too Many Prisoners, troppi prigionieri, e non come sembra Too Many Christmas, che sì, la pronuncia di Tony Allen, che anche il vocalist sembra un po' strano, tutti dicono ah, perché troppi Natali, sì, anche i Natali sono troppi, ma sicuramente i prigionieri sono più troppi, più, ecco, sì. Quindi chiudiamo questa selezione e speriamo di farvi agitare un po' le chiappette e il cervello con questo brano di Tony Allen 2009 da Secret Agent e Le One Po. Ciao a tutti, ciao. That's never been. Wickedness is born of guilt. I miss weapons pushed.